qualcuno non ascolta K. Se c'è qualcuno che vuole entrare avanti, non c'è nessuno, dai. E poi sta ascoltando la Linky Nazionale. Ascolti tu. Ma cosa stai ascoltando? Con un portatile? Sì. E che antenna c'hai? In gomma. E riesci a prenderlo? A voglia. Cioè con la tenina in gomma riesci a prendere? Sì, perché? E a che frequenza lo stai ascoltando? A 431. 431 è quanto? 237. 431, 237, boh, non c'avevo questa frequenza. Ma so c'è gente imbecille, che rotta, che mette registrazioni, ma imbecille di tu non c'è sempre. È bello che sono radioamatori pure. E chi lo sa, boh. No, che molti radioamatori di quelli bravi se ne vanno dai CB perché dicono che ci sono gente maleducata, caffona, eppure in chi vive il gioco? Sì, sì, troppo lì alla batteria. Ma dove stanno parlando queste? Da fuori, dal continente. Ma che riesci a beccarlo da lì? Vabbè, forse c'è un'apertura. Ah, vabbè, ci sono i ponti, no? Tramite il ponte, mica è diretta. Già lo so che c'è tramite il ponte, però dove è il ponte dell'internazionale? Ma il bucato lo sa dove. Volevo riesumare l'altro, il bacio, a farlo camminare. Mi sa che attacco lo bacio perché sono a me che non va. Attaccalo. Aspetta, metto la batteria, però che sono a me che non accendo. E adesso qua. Lu, ehi, prova. Ma c'è che abbasso il microfono. Come sta andando questo? Ehi, con la bomba. Mi sente bene? Di lusso. Ma troppo forte la radio, questo lo sai quanti anni che non lo uso. Ah, va bene, fa un passaggio. Ma sto uscendo, dammi il segnale, un rapporto di segnale mi sembra troppo basso per quello che mi aspetta. Ah, stai tutto scorreggiando. Ah, c'avevo l'RFG tutto chiuso, ma che sta facendo con M1? Sto uscendo adesso. Ehi, male, roba, c'è tutto tru. Aspetta, troviamo. Ah, sta facendo male, roba. Cosa? Aspetta, proprio un a muoverlo. Guarda adesso, uno, due, tre, prova. No, sta facendo male. Perché forse sono batteria scarica o che cosa? Sicuramente sì. Prova a cambiare la batteria, boh. Fa qualcosa. Perché poco fa metto stavo uscendo bene. Poco fa inizio a uscire, sta facendo male. Gracchiante sto uscendo. Poi ascoltate un po' dal microfono. Uno, due, tre, prova. No, sta facendo male, roba. Non si capisce niente di quello che dici. Ti compagni Giamba. Guarda se questo sta uscendo. Prova. Uno, due, tre, prova radio. Questo sì, perfetto. Allora questo sai cos'è tu? No. Questa è la 48 con l'M93 che mi ha regalato tu cantani, 15 anni fa me l'ha regalato, mi sembra nel 2005, è sempre con la stessa batteria, io non l'ho mai cambiata la batteria. Sei buciolato allora? Mica non sto scherzando, mi c'ho gli altri microfoni, come dopo un mese, due mesi mi buttano a terra la batteria, magari questa del Tanner la batteria è scarica, non lo so. Questa è sempre la solita, a parte che viene male pure a tu, la c'ho le cacciavite, non l'ho mai cambiata. La radio si sente? Sì, abbastanza. Vabbè, ero molto lontano, così dovrei parlare più vicino, meglio va. Va bene, va bene, ottima radio. Non è distorta, dico. No, negativo. Va bene, Robert. Non so se si può mettere, aspetta, provo a mettere, niente, le connessioni della 48 con il patch uguali sono, niente ne sa. Sempre quattro fili, però non lo so, Robert. Aspetta, provo ad attaccare, voglio togliermi il dubbio. Io attacco il tunnel, se si può mettere in questa la 48 a vedere se funziona. Yeah. Sta uscendo lui? Sì, sì. Allora, questo è il tunnel sull'ala 48, com'è? Fa un passaggio. 1, 2, 3, prova radio. Un bel forte. Più forte di quello di prima? Ed è migliore come radio? Sì. Ultima. E allora ho messo anche il patch. Aspetta che adesso nel patch gli rimetto l'M93 a vedere se la Mario vuole pulito dentro. Io sono troppo tempo che non lo faccio funzionare il baracchino. Adesso rimetto il patch con l'M93, voglio vedere se funziona. Prova. Allora, attenzione, mi senti con questo? Ehi, a più basso, ma ti sento. Ma non è coso, non è gracchiante adesso. Parla. 1, 2, 3, prova radio, attenzione, canale 10, questo non è meno su un patch. Il 91 93. No, stai gracchiando. Allora, c'è qualche problema su quello pulito, tutti i contatti del microfono, quello non è la batteria scarica. Ho pulito i contatti, quando c'è tempo lo pulisco, ma problema lo stato dei contatti sicuramente. Il microfono che vuole pulito, perché anche quando faccio lo stava gracchiando la ricezione. Vabbè, ho capito poco di quello che hai detto. Stavo dicendo, probabilmente bisogna pulire i contatti del Mickey Gain, perché è troppo tempo fermo, lo devo togliere il coperchio e gli do uno spray dentro. Ah, beh, sicuramente sì. Perché se mi hai detto che all'inizio stava andando bene e poi funzionava male, probabilmente c'è qualche cosa, granellino di polvere o di ossidazione. Comunque questo qua nella 48 funziona. Sì, questo sì. Il segnale è molto rispetto a prima, molto più basso. È sempre uguale, parla. 1, 2, 3, prova questa la 48 Precision Size con boost avrà 3, 4 watt, 5 watt. Vabbè, qua ce lo dovete andare a regolare, 6, 9, 10 qua. Comunque la radio è pulita a 5, non ha disturbi. No, va bene, dai. Non è che sia questa grande radio, comunque già va bene. Oh, qua posso salire di volume, il volume com'è? Giusto o posso salire ancora? No, va bene, lascio così. Poi c'è anche il Ruiz, però il Ruiz ha le connessioni diverse dal coso, quello stesso adesso devo fare andare. Quello lì a 110 volt aveva comprato il trasformatore per farlo funzionare. Ma come lasciarlo così? Non aumentare, sennò poi distorci, è brutta. No, lo lascio così, non mi ha fatto. Era soltanto per provare. Comunque questo Tanner è più bello di quello M93 come modulazione. Sì, è bello, cazzo. Cioè la noti la differenza. A voglia. A me non mi è mai piaciuto la 48. So che funziona bene come emissione, però di ricezione è una mezza cagattina. Poi non mi piace che c'ha tutti questi cambio canali troppo duri. A me piace il manopulone belli grandi. L'unica, cioè mi piace la stazione base. A me questi baracchinetti così veicolari non c'è neanche uno che mi piace. C'è carino il 48. Se bisogna un po', vabbè, forse quello lì non è stato mai aperto. No, questo è l'originale, nuovo, come un altro, c'era una settimana di vita, l'ho messo in macchina un amico, quando c'era il periodo dei posti di blocco, eccetera, gli avevano detto mettitelo così, insomma questo è un rappresentante, così se senti i camionisti magari ti avvisano e ti dicono se c'è qualche problema. Hitler era uno che camminava in macchina, e invece poi mi ha detto vai, non me l'ha fottuto nulla, l'ha tolto e me l'ha regalato a me, ma mi stavo parlando nel 2004, proprio all'inizio che ce l'ho questo, il primo baracchino che c'ho questo, poi subito dopo ho preso il patch e poi tutti gli altri, però è nuovo, si può dire che non è mai stato usato e basta, c'ho anche la scatola originale. Vabbè, non è regalato, già è meglio con l'analogico, a me piace di più l'analogico del digitale, boh. Sono ormai talmente fissato. A me piace quello del 2001, cos'è? 8001, l'anno 2001, quello mi piace. Poi c'ho anche il Mobicom, l'MB40, c'ho. Quello l'ho dato a cosa? A Giovanni Bracco, al radioamatore, per usarselo, perché lui non aveva niente, era scendi con un vecchio Sommertamp, e ho detto te usatelo, poi quando mi serve me lo dai. Ma c'è più inteso, ma vivo, sì. Sì, è venuto quando è l'officina che abbiamo lavorato, venerdì è venuto, è passato, però l'ho salutato un attimino, poi c'era gente, e sono riuscito ed era andato via. No, ma già passato ogni tanto, ma già in gamba, è generoso, è una persona generosa, cioè se ti chiedi qualche cortesia, qualcosa che ti può dare, te lo danno. Dai, beh, non lo metto in dubbio. No, beh, penso, non posso dire niente, almeno anche lui quando gli serve qualcosa in officina, qualche piccolo lavoretto che posso aiutarlo, glielo faccio, ci mancherebbe. Io con le persone che meritano, mi sono sempre, cerco sempre di ricambiare. Beh, deve essere così, la cosa è reciproca, roba. Poi ci sono i furbacchioni, quelli che vengono a approfittare, chi se non mi piace, una volta mi prendi in giro, la seconda vai a giocare da un'altra parte, ce n'è più di uno di quelli, già lo sanno chi sono, è per quello meglio che non si facciano più vedere. Per il resto cerco di andare d'accordo con tutti e da parte mia cerco di essere corretto senza fare il furbacchione e di approfittare di nessuno. E perché da me? Perché da me? Vabbè, secondo te? Lasciamo perdere. Di te sicuramente, per i specialisti versi più di me, per il tipo di lavori che effettuo, vabbè io sono roba di auto, però per il lavoro tu, le piccole riparazioni, ecco, le tue paiette ne approfitta e non va bene, una volta lo puoi fare, due volte, però cacchio, non è che sei a conto loro. No, perché quello che mi ha fatto di a me, li vieni al ristorante, prendi i da poi vieni i bignetti, dopo ne fa conta sul telefono. No, ma a parte quello, poi diventa la cosa più brutta, che a me mi dà fastidio, così anche per un altro amico che qua ripara delle radio più evolute, diciamo, già te lo ripara quello, dammi a me che glielo do, cioè stava diventando una cosa, un'abitudine, quando sono per la quale dammi a me che glielo porto io, cioè tipo quando andi al coso, al supermercato, te lo compro io il coso che ti serve, e non va bene così, finché uno dice dai mi fa un favore a me personale, ma poi stava inventando una cosa, e così era, penso anche a te, un bel già te la giusta Luca, e dalla Luca già te la giusta. Bravo, proprio così. Ma prima la cosa, il telefono di tua figlia sta sempre funzionando, sempre quello. Cos'è? Ma sai che cambio baracchino, che qua c'ho la tua parata interna, non si sente bene, cambio baracchino. Cos'è detto Luca? Ho detto, il telefono di tua figlia si sta sempre funzionando. Ehi, sì sì, già sta andando. Meglio così, da. Meglio così. Vabbè. O ci metti un oggetto buono, robè, cioè originale, va. Se non lo metti originale ti darà sempre problemi. E adesso a proposito del cellulare, io ho comprato un cellulare forse 13-14 anni fa della Enicol, ma anche lo conosci, è stato il primo cellulare che c'ha la televisione, con la televisione incorporata c'è un antennino, cazzo ce l'avevo, ma non so quanti anni fermo, ho detto sì, provo a accenderlo e non accendeva, ho detto che strano Mari, ho provato a attaccare il caricatore e non funzionava, ho detto che strano, poi deve essere batteria, erano completamente a zero, l'ho messo adesso in carica 10 minuti e sta accendendo. Questo all'epoca, l'opera micro sono acquistato nel 2006-2007, più o meno quel periodo lì, c'era la televisione digitale terrestre, a parte tutte le altre cose, che non c'erano ancora i telefonini, gli smartphone, e questo c'era la televisione proprio, cioè che c'era il ricevitore televisivo, adesso lo sto mettendo in carica e lo faccio funzionare. Ma quello della 3? No, l'avevo comprato, ce l'aveva un amico mio, anche quando l'ho visto catta di lusso, questo quando è stato comodo, perché c'era la televisione, ho detto, ancora adesso la televisione se vuoi te la guardi via internet, non c'è problema, ma 15 anni fa ancora non c'era la possibilità, almeno poche televisioni che potevi fare lo streaming. E questo c'ha proprio il sintonizzatore digitale per la digitale terrestre. È bellino, puoi anche registrarti i programmi, è piccolino lo schermo, è una cagatina, però adesso dopo lo faccio funzionare, li ricarico i canali. Ho capito, tipo quello della 3, era. E stiamo parlando, ci avrà 15 anni, me Luca, questa cosa, 13-15 anni, quando ancora i telefoni, gli smartphone, quelli touch screen, questo addirittura per toccare il coso ti danno una specie di pennina, c'hai, oltre che l'antennina che si allunga, c'ha una specie di pennina per utilizzarlo tipo touch screen. Ho capito. Vabbè, se funziona va bene, bisogna avere la batteria dopo gli anni, dopo quegli anni lì, va a farsi benedire, si gonfia. No, l'avevo tolto la batteria, ho due di batteria, ti davano due batterie in coso, in nella confezione, ma è nuovo nuovo, perché non ho usato quasi niente, c'ha due schede SIM, potevi mettere, all'epoca era all'avanguardia quel telefono, adesso ti metti a ridere, perché i numeri poi li puoi fare sia a touchscreen, però non con le dita, con questa specie di pennina che ti danno, oppure c'è la tastierina come i vecchi Nokia, te li ricordi che c'aveva la tastierina con i numeri, l'accensione c'è proprio il tasto rosso nel frontale sotto lo schermo, ma non è neanche alta definizione, proprio a giocate, però è simpatico. Vabbè, se ne ha avuto veramente, ma veramente ne avevo stessa la parola, una marea di telefoni, una marea ne ho avuto, una marea proprio, tu pensa che a me me li davano, me li riparavo e tanti ne ho regalato, qualcuno l'ho venduto. Guarda, io il primo telefonino me l'aveva regalato mio fratello nel 95 quando mi sono sposato, ed era lo storno della Motorola, che c'aveva la batteria quasi a mezz'ora di autonomia, ma mezz'ora veramente, e là c'avevi le batterie, quelle doppie, grosse, un barrazzone, pesavano 1,5 kg, e te le portavi sempre le batterie perché erano, non erano a litio, non erano a nickel cadmio, per cui l'autonomia era molto corta. Poi dopo di quello sono passato ai MicroTac, poi sono passato allo StarTac, poi sono passato con gli Huawei e poi gli ultimi Xiaomi, non ho mai Samsung, non mi sono mai piaciuti, e li ho girati, ce li ho tutti, io i telefonini che ho avuto li ho tutti conservati, e ne ho anche qualcuno in più che non ho comprato, che me li avevano regalato, c'ho un bel Nokia di quelli, te ricordi quel Nokia, me l'ha venduto un amico, l'ha dato a mia figlia, quello grande che si apriva a triplo libro, è stato uno dei primi che c'aveva una tastiera tipo macchina da scrivere, che potevi scrivere i messaggi. Guarda, io ho ancora il D470, tu lo conosci a sportellino, tipo l'8007. Sì, già lo conosco, no, ma questo che sto dicendo io Nokia costava all'epoca un'esagerazione, era un barrasone, un bel grande, e c'aveva, cioè lo guardavi la tastiera, cioè il display normalmente è verticale, mentre questo è in orizzontale, era tipo un computerino, però telefonavi e potevi scrivere, insomma era un bel grande, potevi scrivere come una calcolatrice, c'è cioè, presente, piccolina, però con tutte le cose, i messaggi, era fatta apposta quando all'apice delle cose, degli sms. Vabbè. Ah, io ne ho ancora conservati, solo che non funziona, ne ho di quelli Motorola piccolini che si aprono a portafoglio, poi c'ho l'Ericsson T28, funzionava, poi ho avuto dei problemi, quello l'avevo pagato, vabbè, non quello, questo qua proprio no, quel mio me l'avevo venduto, l'avevo pagato 800, quasi 900 mila lire, c'ho ancora i bollettini conservati, ma l'avevo venduto 300 mila lire. Lo so, prima costava una barca di soldi, a me mi aveva dato come regalo di nozze il coso, mi pare costava 900.000 lire, ed era il più scaccino della Motorola, lo storno. Poi c'avevo quelli a conchiglia, ti ricordi che si aprivano a conchiglia, quelli piccolini ne ho avuto di invece, e poi mi avevo preso lo StarTac, e poi c'avevo un altro che mi è durato una settimana, l'unico telefonino che io ho rotto, perché ce l'avevo al mare, ce l'avevo una settimana, ce l'avevo nello zaino, mi sono coricato come cuscino, cacchio, mi sono aperto, c'era il cellulare sotto, era una breda, tu hai spaccato il display, l'unico che io ho rotto, tutti gli altri li ho cambiati perché ormai c'era di meglio, dai. L'ultimo che ho cambiato era il coso, la Huawei, che era, funziona ancora, poi ho comprato, ho detto quello, c'ho un S8 nuovo, mai usato, l'avevo preso fuori all'estero, di quelli di parallela, importazione parallela, quello è nuovo, non l'ho mai utilizzato, ce l'ho di scorta, non si sa mai, e poi c'ho la Huawei che l'ho dovuto cambiare perché c'era, no, funziona ancora perfettamente, però è arrivato a caricare troppa roba, alla fine ho netto di tutto, ho preferito lasciarlo così e cercarmi uno più nuovo. E io c'ho, vabbè, io adesso ora come va c'ho l'S10, l'S10 è, poi c'ho l'S8, ma l'S6 Edge, poi c'ho, vabbè, questo qua è rotto, lo sto usando per giocare, il A3, cioè avete rotto, giustarlo non ne vale la pena, vabbè, oh, non ce ne spendo soldi, magari forse qualche anno fa si poteva fare, ma adesso no. E poi c'ho il Huawei P8 Lite. Sì, Huawei erano ottimi telefonini, io sono stato uno dei primi, l'ho preso nel 2013, ancora non la conosceva nessuno Huawei, tutti, ma la casa biliardo, questa cagata, aspetta un po' e vedremo un po' così, così adesso i migliori sono gli Xiaomi, sono in assoluto i migliori telefonini di qualità prezzo, e tra il fatto che sono arrivati al terzo posto nel mondo come prodotto. prodotti come quantità prodotta, hanno superato anche l'iPhone, prima la Samsung, vicina c'è la Huawei e il terzo produttore mondiale la Xiaomi, ma fa dei prodotti eccezionali che qualità prezzo non ce n'è, cioè con un 300 euro ti compri un telefonino che può prenderlo uguale prestazione ce ne vogliono 700 di Huawei, non parliamo di Samsung. Allora, quello mio ha costato, io vabbè non l'ho pagato così, 700 euro, però lo Xiaomi è buono come telefono, fa belle foto, niente da dire, però come facevo un mio amico che abita in Germania, lui ce li ha presi tutti l'S6, l'S7, l'S8, l'S9, l'S10, l'S20, adesso sto facendo l'S21, come si dice, l'S9, anche, vabbè, ho detto S9, li ho avuti tutti, e ci stava facendo l'S21 che è superiore allo Xiaomi, come processore e tutto. Tu devi fare il discorso qualità prezzo. Allora adesso l'ultimo, il top del top dei telefonini deve uscire, lo Xiaomi 11, che c'è il primo al mondo che monta quel processore super veloce, 5G, tutto quanto, c'è la tecnologia anche per il 5G, che costa, ancora dovrebbe uscire forse in America, Stati Uniti forse è già uscito, in Italia arriva a gennaio. Quello lì adesso è il top del top come processore, il primo al mondo che monta quel processore, però ecco, se io mi compro un Samsung che costa 1300 euro e c'è prestazioni eccellenti e trovo un telefonino che con 400 euro quasi le stesse prestazioni, me ne compareggio 3 telefonini io con quei soldi. Lo so, ma c'è gente che lo usa per lavoro, se vuoi un telefono veloce. Io questo qua l'ho preso perché mi serviva un telefono veloce con molto spazio. Il mio L610 ha 128 più 32 di memoria, sono 128, 160 giga di memoria. Allora il mio è di base 128, 6 giga di RAM e l'ho pagato 300 euro. Quando l'ho preso io per avere un telefonino con quelle prestazioni ce ne volevano il doppio, minimo il doppio con la Huawei, il P40, cosa era, il P30, ma non me ne ammetto. Ed è ancora attuale, io ce l'ho 2 anni, hai fatto 2 anni questo cellulare adesso, e ti posso dire che sono più che soddisfatto. C'ha un display che si caga, un bel telefono, la videocamera, vabbè, non te ne ha fottuto nulla, anche se c'è 48 megapixel, c'ha 3 fotocamere, non te ne ha fottuto nulla, adesso c'è da 108 megapixel con la nuova delle Mi 11, lo Xiaomi Mi 11, c'ha 108 megapixel, ma tanto non te ne vai nulla perché non devi fare gigantografie, però di lì vai uno dietro l'altro. Adesso questo mese il migliore è lo Xiaomi, il mese prossimo esce la Huawei, l'altro modello, però costano sempre di più rispetto allo Xiaomi, e quello io parlo qualità prezzo, se tu ti guardi il miglior telefonino entra una certa cifra, sempre al primo posto ci sono gli Xiaomi, come prima c'erano gli Huawei che hanno, facevano la porta, solo Huawei si è fatta furba, adesso sta aumentando troppo i prezzi. Ma ce ne sono Samsung, questi sono carini, ma ci sono, vabbè, a me la batteria mi sta iniziando a scarseggiare dell'S10, vabbè lo uso per giocare anche, niente. Già lo so, mi ero sistemato un Antonio, avevo cambiato il display di un Xiaomi, mi pare che sia, sì, Xiaomi. Vabbè, c'era anche la scheda mezzo danneggiata, quella sistemata lui. Abbiamo piazzato il display ed è perfetto, ho provato tutto quanto in chiamata, è a posto. E dice c'è quella conservato, perché lui ce l'ha uguale, siccome quello era della figlia, niente. Vabbè, purtroppo i telefoni sono un casino, roba. Ma io posso dire una cosa, sono fortunato che ancora non mi si è rotto, mi è caduto l'altra volta, l'ultima volta mi è caduto un mese fa, a faccia a terra, e meno male c'avevo il mettere di protezione. No, io prendo quelli al libro, con le coperture al libro, che lo apri per rispondere, che è coperto da tutte e due le parti. Il mio addirittura c'ha doppio schermo a vetro, c'era davanti e dietro, infatti costava un po' di più, l'S9 costava, rispetto all'altro costava un po' di più, però l'ho preso perché c'aveva la RAM un po' più alta, solo per quello, se avrei preso l'altro modello. C'ha doppio vetro, mi è caduto un paio di volte, ho detto, mi facciate, ma male, c'ha tutto il bordo in silicone, e più c'è la chiusura al libro, cioè presente quelle che ti coprono completamente. Sì, no, non mi piacciono i gusti roba, lo so, ti protegge quanto vuoi, però non mi piace. Anche il mio è 16 giga, 6 giga di RAM. Quanto c'ha di RAM tu? 6 giga, invece il 64, ma l'SSI Edge ne ha 4 di RAM, il 64 di memoria però non è espandibile. no, questo io ho 128 di base, però puoi metterci un'altra scheda, ma non me ne ha fatto nulla, tanto 128 cosa ne fa. La RAM mi interessava, che quella è importante, l'altro che avevo della UE ne aveva mi pare due di RAM, ma alla fine si trippava, quando ci metti troppa roba si trippa, a parte lo fai una puzza quando con tutte queste applicazioni, questo grazie a Dio sta andando, finché dura me lo tengo. E anche il mio è uguale, c'è uguale al mio praticamente. Ha fatto delle belle foto a me. Mario di notte le fa un po' meglio la Huawei, diciamo in certe condizioni, però in condizioni normali ti posso dire fa delle foto eccellenti, proprio bellissime. Sì, no, davvero, va benissimo, a voglia. Qui nei Parigani, ma già mi va bene, prima volta mi va bene, io volevo prendere il 512 giga, ma l'ha consigliato un amico. E cosa ne fa Luca? Cosa ci deve mettere? Vabbè, allora siamo sicuri che la memoria non si riempie. Vabbè, dai, lasciamo un attimino il bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare. Attenzione, canale 10 che vuole entrare. Comunque Luca, a proposito. Stamattina quando ho chiuso ti dico, gli ho detto ciao, le abbiamo chiamato al telefono e c'era Grodde che stava chiamando, mi ascoltate, quando eravamo a 9:10, ma tu non lo sentivi a cosa Antonio? No, stamattina no. E infatti poi l'ho telefonato per altre cose, gli ho detto ma già di tu, sì già ero io, perché tu l'hai detto chi è che ha detto che aveva salutato, stava provando un'antenna, però dice non gli mancava la massa, e dice che c'è un sistema così si fa sentire come prima. Io l'ho sentito. A secondo, già comunque lo sentivo benino, guarda, non bene. Antonio se vuole già c'è bene, poi dice c'aveva una marea di antenne, mi ha fatto l'elenco di tutte le antenne che aveva, che ha dato, venduto, regalato, e te pone di ne una, almeno capisci decentemente. Io l'ascolto sempre oltre le 9 perché in linea d'aria siamo abbastanza vicini, sono tutto aperto, però ho detto per quelli che sono dalle altre parti del monte, di lì non ti ascoltano. Infatti. È vero. Vabbè, comunque. Già si fa sentire, dai. Una domanda, parlando dei microfoni, non parliamo di segnale, di modulazione, questa molto più alta di quella di prima? Adesso io quando ho tempo mi devo mettere a fare la regolazione dell'altro, quello che c'ha l'equalizzatore, mi ascolto con una radio seria, con le cuffie e vediamo un pochettino. È molto molto alta, bella. Non è troppo alta? No, cos'è questo qua? Questo è 60. No, la solita radio, no, va bene. No, ma voglio regolarmi bene la Dunis, come piace a me, perché Maria a voi piacciono questo tipo di modulazione. Noi abbiamo fatto tempo fa con Claudio, avevamo regolato la Dunis qualche anno fa in base al 60, sono quasi simili, infatti molte volte io attacco la Dunis e nessuno se ne accorge, lo devo dire, io dico sono con la Dunis e sono regolato uguale, però a me, io ho provato ad ascoltarmi registrato, mi hanno mandato dei video registrato, però la voce non è che mi piace assai a me, volevo farla un po' meglio, e poi quando ci avrò tempo, siccome c'ho voglio prendermi un altro 60 magari anche da sistemare, ecco, e ho già la testa microfonica di un RCF che questo lavoro l'aveva fatto, ti ricordi quello Gianni Ditti, di Giovanni, quel tecnico, e lui mi aveva dato il progettino per utilizzare quella testa di un microfono professionale della RCF che è quasi uguale a quello del MC60, sono similissimi, però devi fare un piccolo accorgimento per regolare l'impedenza, io l'avevo sentito fatto da lui e c'era una modulazione particolare, bella, chiara, naturale. E a voi lasciamo ancora Giovanni ma non ha dato lui il che aveva problemi lo smitter del fatto, ma è sicuro che ce l'ha, è sicurissimo, sembra strano perché era introvabile quello smitter, è vero, poi ci ho salito con Mauro quello di Lipunti e sono andati a prenderlo lì a Itti niente, l'avevo messo lì nel coso, infatti è quello che c'è sotto mi ancora, adesso sta iniziando anche quello lì a fare dei capricci, comunque già sta funzionando. No, è molto preparato, cavolo, io ti posso garantire, a me mi ha fatto dei lavori di roba acustica, di casse, dei lavori, sono rimasto a bocca aperta, poi deve sistemarmi, c'è un amplificatore grosso, hi-fi, diciamo, audio, me l'ha tutto smantellato a zero, dovevo ordinare il transistor, però, e poi ci ha contatti con tutto il mondo, davanti a me parlando in coso, a Hong Kong con questa T, tipa che vende prodotti in diretta, a me videochiamata, facciamo, ti posso dire, insomma, nel suo lavoro, nel suo campo, veramente bravo, su, soprattutto su roba hi-fi, costruzione di amplificatori valvolari, casse, ti posso garantire, molto molto preparato. Io ce l'ho sempre smontata, più di un anno mi pare, con, la, con l'amplificatore grosso della Revac, che ci avevano messo a mano qualcuno, però non ha negava dubbi, lui appena l'ha vista ha detto fai questo, questo e quest'altro, cambiamo tutti questi pezzi così, solo che su quei tipi di amplificatori ci vogliono i transistor selezionati e tutti accoppiati, non è che puoi prendere un equivalente oppure uno di una marca, uno della, vanno presi tutti selezionati e tutti uguali, dello stesso, della stessa produzione, se no cambia il suono, non stiamo parlando di baracchini o di radio HF. Ah, senza dubbio. Però ti posso garantire, mi ha insegnato anche dei trucchi, abbiamo fatto dei lavori perché abbiamo modificato delle casse, dei calcoli matematici, cose. Lui è molto molto preparato, infatti io, mi ha insegnato tante cose, ho visto, io poi quando sono persone preparate non sono chiacchieroni, anche un bel niente improvvisata, si pone a fare cose, lui ti posso garantire, nel campo dei hi-fi, costruzione, progettazione, soprattutto progettazione non è un qua qua qua, perché un altro senza far nome, che già lo sta aspettando al varco, ci aveva già messo mano, mi ha preso in giro e mi ha bruciato Bulloni di Nara, un personaggio che entrava qua in radio. Vabbè. Casino la roba. Non l'ho più sentito e mi auguro di non sentirlo più perché gli ho rifacciato tutta la vita. Alla fine era giubilato, ma l'ha tenuto 2 anni prendendomi in giro, non c'erano i pezzi, dovevano arrivare dagli Stati Uniti, che poi si sono presi in Australia, che poi quello, quello. Se è stato 2 anni, io gli avevo anticipato un bel di dinami per cambiare i pezzi. Gli ho detto, te però non c'è bisogno, te prendili così me li ordini i pezzi. Mi ha bruciato, non ti dico la cifra, ma una cifra molto importante. Alla fine ho detto, fai una cosa, torna a me tutto e non fatti più vedere, perché è un personaggio. Quando capita qua trucchi già te lo dico. Quindi che ci do per roba? Uno che poi non ho più sentito, meno male non ha già ben inteso, perché mi dava fastidio solo a sentirlo. Poi basta non fidarti. Guarda, tu conta, quando facevo dei lavori io, cazzo, mi facevano aspettare, facevano fare la cosa veloce perché tipo computer così, e poi mi dicevano che avevano soldi. Guarda, da poco ho fatto un televisore, ma in fretta questo qua. Praticamente era difettato, guarda, lo accendevi, a seconda come muovevi lampeggiava, no? Lampeggiava lo schermo, vabbè, comunque io l'ho sistemato. E mi ha detto che mi dava 60 euro, ma ho detto vabbè non c'è problema, basta che me ne dai 30, questo qua è sparito, lo chiamo che non mi rispondeva, poi un giorno manco a fare l'apposta lì vicino a casa mia, l'ho trovato, ho detto vieni anche a prendere il televisore, ho detto guarda anche se non c'è i soldi, vieni a prendertelo, perché ce l'ho mezzo ai piedi, ce l'ho. È venuto, sarà preso, ci vediamo fra 2 settimane, qui che è sparito, per 30 euro, allucinante. Lascia perdere, infatti non bisogna mai dare niente, in officina una cosa ci ha segnato papà, si paga la consegna, mettilo bene in grande, se no tu non tocchi la macchina, tu non ne prendi neanche parenti, cugini, presidente della Repubblica, tutti devono pagare, non ne tocchi le macchine tu, vai a casa, prendi i soldi, se no ti butti lì, diventi, dice se no ne vengono anche da Milano, visto se dicono che questo dà le macchine senza pagare. Vabbè, chi è uno lì per fare uno sconticino, vabbè glielo puoi anche fare, ma quando uno se ne approfitta non va più bene. Per di bella, riprendi un attimo qua, ciao qua, riprendi, che sto mandando un messaggio. Dove sei qua? A casa. E perché sei così basso? Quanto posso essere basso? Sei 9,35 qua. È giusto, sto andando con l'ipolo. Stai andando? Con l'ipolo. Ah, infatti c'è una voce strana pure. E come hai messo questo dipolo? Sì, c'è sempre, mi è stato comuto. C'è dipolo, questo è dipolo di 40. La voce pare coso, Alberto Lupo, un bel cuppa, sì, un bel cuppa, sì, c'è la stessa radio, come faccio il cuppa, sono io che sono un po' rocco, no, non mi sento bene. No, ma deve essere anche l'emissione, il tipo di emissione, tu sei in orizzontale, no? Sì, in orizzontale. Ti cambia totalmente la voce, ti ho riconosciuto a chi la voce tua è inconfondibile, però non so se tutti ti avrebbero riconosciuto. Io mai, sono sempre la stessa voce. Quanto ti sto arrivando in verticale, io e tu in orizzontale? 9,30, sì. e tu sei poi l'ultimo più di 9.30. E i 10 watt ciò non la posso aumentare molto, non so manco se sono stazionari, manco accordato, mi stavo ascoltando, sono andato a salutare. Stanno parlando un po' di gente furbacchiona che viene a fare le cose e poi non paga, oppure che non c'hai soldi e poi dice fai e poi non te ne ritiri. Vabbè, non è caso mio, già lo sai, che già non esce nessuno senza pagare, però purtroppo c'è gente furba che ne approfitta. Sì, gente furba c'è anche gente pronta, non so. Mi hanno fatto sentire un audio stamattina, che se scopro chi è che fa queste cose me lo mangio vivo, perché hai capito cosa fanno i signorini, e immagino in linea di massima già lo so chi è. Cosa è successo? Perché? Fanno, ti registrano e poi se la mettono in una chat particolare che hanno, tutto lo spiego per picchiare, capito? Ascoltano le tronzate, no? che diciamo, ma soprattutto che dico, no? Perché io di tronzate ne posso dire tante, capito? Cosa fanno questi grandissimi miserabili? Cioè, ti dico, purtroppo la radio c'ha tante cose belle e ci sono tante cose brutte, e una di queste che stai dicendo tu è una cosa brutta. Se fa una cosa del genere sei proprio brutto, non lo so. Io ti ripeto, lo sai benissimo, la radio per me è solo un divertimento, tutto il resto, quello che c'è dietro, non esiste, e appena vedo qualcosa che non quadra stacchiamo tutto. No, a me non mi fa né caldo né freddo, perché sono cose schifose, capito? Anche perché è fatto da persone che si credono di essere chissà chi, perché loro pensano che io non so, ma so tutto, quindi va bene, non c'è problema, continuo a registrare la mia voce e a mettersi nella chat e a farsi due risate. Non lo so, non intervengo perché non so niente, per cui non posso dare commenti, sicuramente non sono belle cose. Ok, io aspetta, mi allontano un attimino, vado a bere, riprendi tu Luca. Luca sta facendo cosa? Già sono qua io, vabbè, non c'è problema. Io sono qua anch'io, stavo mandando un messaggio. Vabbè, purtroppo, dopo dico. Io te di merda, quindi non bello. Vabbè, e che ci vuoi fare? È bello dire le stronzate, se non dice le stronzate non va avanti. Io beh, ma siccome ho fatto la persona che loro pensano che io non sappia niente, ripeto, ma io già so tutto. Sono convinti che l'asino vola, ma ho 42 anni di radio, quindi è un ragazzino, quando sono andato in radio non mi prendo per il culo loro, no? Già li prendo per il culo io e continuo a prenderli per il culo. Comunque lasciali fare, non c'è problema. Sono grandi vaccinati, vedano loro se vogliono continuare a registrare la voce e mandarcela nella chat, per cui vabbè, siamo pronti. Ah, chat su WhatsApp? Sì, una chat ci hanno tra di loro. Una chat tra di loro e l'hanno fatta sentire già un paio di volte alcune cose. Stamattina poi me ne hanno fatto sentire un'altra recente di qualche giorno fa. Stavo parlando di una radio che era fuori frequenza e ho sbagliato a intraprendere uno strumento subito, capito? Vabbè, lasciali fare. Sappia solo che se il giorno che lo scopro chi è che fa una cosa del genere, ho già quasi un'idea, me ne mangio la testa. Ma non te ne mangio la testa, no. Te ne mangio la testa e te la metto a posto dei coglioni. Ah, fottitini, lasciali fare, sono fatti di peggio, fregatene, via. Lascia fare, vabbè, perlomeno io non sono studiato e alla fine cerco di dare il meglio. Poi se vedo che mi intrippo, purtroppo non è che c'è, cioè, è così, là, è così, vabbè. Sono rientrato io. Io non sono un tecnico, mi faccio le mie cose nel piccolo, quello che riesco a fare, capito? Ma io non ho mai riparato l'aria a nessuno, quindi non sono all'altezza di poter fare una cosa del genere, proprio perché non hai né la strumentazione per poterla fare, né la capacità e né la tecnica per farla. Sono quelle cosette che sai fare dopo tanti anni di esperienza, proprio fesserie, ti metti e le fai, no? Capito? Vabbè, figlio? No, stamattina sono salito a Ursula a vedere, mi da Marcello mi va a far vedere una cosa, Marcello con la fianca a me. Cosa vuoi dicendo? Quanto ti arriva Claudio in orizzontale a 3, Luca? Claudio in orizzontale? Adesso lui è qua molto più basso. Prova, Cla. In orizzontale sono, non sono in verticale, sono in orizzontale. Tu sei 9-10. No, è più basso, sì, è più basso. Ma di poco, là. 9-10 sei tu. Già va bene. Non c'è problema. Adesso tanto io già la mettiamo qua, non c'è notte che facciamo col lavoro con quell'antenna. Sì, vabbè, tu c'hai quella grande. Sicuramente puoi fare tanto anche. Io gli ho tolto le direttive. Gli ho tolto, non metterò mai più, ma non solo le direttive, ho tolto tutto, anche il Google, tutto una divulgata. Faccio il CB, che sono buono a fare solo quello io. E me ne vanto di saper fare il CB. Stavo dicendo qua, il link nazionale, qua, da dove lo ripetono? Da Villanova Monteleone. Infatti è abbastanza. No, perché Luca riesce a prenderlo col gommino. Perché tu riesci a prenderlo col gommino? Metti a 431.237.5 e riesci a prenderlo col gommino. Arriva benissimo. Lui, soprattutto a noi, anche a me mi arriva col gommino. Allora io lo provo col qualcosa. Vabbè, gommino non ne ho, già c'ho il ricevitore con l'antenna esterna, sempre con la V che mi avevi dato tu, ti ricordi? Sì, va bene, tutto un gommino. Un portatilino. Che non ne hai portatilini, Roberto? Io? Scusa, non hai portatilini. A me stai dicendo qua? Sì, si occupa bene di contigo. No, pensavo stessi rispondendo a Luca. No, già ce l'ho il portatile, c'ho la R2000 di piccolino, cioè di coso, e poi credo che ci abbia qualche VHF, non lo so. No, quello è UHF, sì, già ce l'ho un UHF, uno della ICOM, cioè. Va bene, va bene. Non problema. Aspetta se riescono a farti aggiustarti quella che ti ho dato io. Riceverai bene, lui ci vedrà. Infatti quella mi piaceva perché è base, perché ce l'ho la possibilità di ascoltare col ricevitore, ma quello lì volevo, io voglio fare le radio dedicate per ogni banda, una per le CB, una per le HF, una per le V, una per le U e poi per altre cose. Vabbè, no, ma già riesci a, già ricevi bene, non ti preoccupare. C'era la partitona Barcellona-Juventus. Quella è la bella partita, anche se c'è da dire ormai il risultato è acquisito, non ne ha futti né a uno né all'altro, però magari la Juventus gioca col dente avvelenato perché l'andata hanno perso immeritatamente. Niente, avvelenato, giocare bisogna, io quest'anno non vince niente intanto, non è perché agli ottavi pensa di fare chissà che cosa, è un gioco molto particolare, molto lento, molto più tecnica, quest'anno c'era l'Inter e il Milan, non ci sono dubbi, quest'anno secondo me è l'anno del Milan, bravissimo allenatore, la squadra è ben compatta, gioca bene a pallone, la Juve vince ma non convince, anche se è terza lì, ma vince ma non convince, non è una squadra che può fare più di quello che sta facendo secondo me, non so. Troppi gol sta prendendo, diciamo ormai sono appagati, sono 9 anni che vincono lo scudetto ininterrottamente, alla fine i giocatori giocano anche un po' più meno concentrati, però io sono contento, sono simpatizzante per il Milan, sono contento per Pioli, l'allenatore che lo volevano mandare via, non li arruolare manco per la fine del campionato scorso, e invece i ragazzini, che sono una squadra di ragazzini, stanno giocando bene, e poi secondo me bisogna stare attenti anche a Napoli, perché quell'imbecille di Conte è un presuntuoso, vedo sempre il vendere gravito come sta trattando con la Eriksen, un campione li fa fare 2 minuti, finita la partita lo fa entrare 2 minuti, perché ha osato dire che lo stava facendo giocare poco, non lo fa entrare, è un permaloso vendicativo. Lo so perché già la seguo, capito? Seguo anche gli altri, non è che non le seguo, però ti ripeto, non è una squadra che può fare tanto. Facendo non può fare secondo me, non lo so, vabbè, avanti Luca Rieri, prendi, comunque mi sto ascoltando e la radio va bene, è bella la radio, sempre. Allora, non ho detto che è brutta, la radio è bella, chiara e pulita, però l'altra, quando si forza in verticale, rimane più potente, più gli acuti li sento meglio. Ma infatti questa non è la società radio, questa è un'altra. Tipo Alberto Lupo, una voce un più vocione si sente di più qua rispetto all'altra, però va bene, non c'è problema. Ok, lasciamo un attimo di bianco, due secondi, se vuole entrare qualcuno, se no riprende Luca. Sì, Brecchi, buonasera. Ciao Giulio, ben sentito. Ciao Roberto, ciao Claudio e ciao Luca. Vai Luca. Ciao Giulio, saluto una chiazza e ben sentito. Ehi Roberto, sono qua e là, e mentre che sono di là sto mangiando anche due pezzi di pane carasau. Riprendi qua. Via. Ciao. Ok, ben entrato Giulio, non so se mi ascolti. Adesso te le lancio il mic e mi dici se mi ascolti. Dai. Vabbè, qui mi chiede a metà, cioè a metà un po' più di metà. Se lo metto così, è più alta la modulazione, sicuramente, capito? Avanti Giulio, buonasera. Ok, ciao Claudio, a voi di essere già ascolto, benissimo, non c'è problema, con la Cobra 139, col microfono normale, sto andando, per cui va più che bene. Va bene, non c'è problema. No, stavo ascoltando quella storia che stavi raccontando, che ti hanno traslato in un'altra frequenza. Magari dico passaggio, bisogna vedere. Comunque, sii attento, perché se viene scoperto una bella denuncia, non se la dovrebbe scampare, secondo me. Avanti ancora, Claudio, vai. Se va bene così, è aumentato praticamente di due tacchi il Michi, che dovrebbe essere simile all'altra. No, non è traslare Giulio, non è traslare, già da un po' di tempo, da parecchio tempo, non da adesso, capito? Però sto sempre lasciando andare le cose, stamattina mi ha girato un po' le balle, capito? Perché io so tutto, non so niente, e mi hanno fatto ascoltare un audio di qualche giorno fa dove appunto ho sbagliato a definire uno strumento. Questa gente registra la mia voce e poi se la gira nella chat che hanno tra di loro, capite? E infatti sto tentennando, perché è una cosa che mi sta un po' dando fastidio, anche perché io non sto cercando nessuno, non ho niente a che fare più con nessuno, quindi non sono per i fatti miei, e quindi voglio essere lasciato in santa pace. E se lo scopro, gli sto dicendo che gliene mangio la testa io a lui, piccolo, grande o medio che sia, capito? Gliene mangio proprio la testa, le apprendo a morsi e me la mangio, e così le insegno un po' di educazione. Sembrano tutti altolocati. Va bene, dai, lasciamo perdere il discorso, già mi arrangio io. Avanti Roberto, come va adesso la modulazione? Meglio di prima? Un pochettino più alta, però diciamo la differenza dall'altro io la noto, quell'altro più di solitamente rimane un pochettino più acuta, questa è un pochettino più ricca di bassi, comunque sempre chiara, 5, perfetta, niente da eccepire, è meglio cambiare ogni tanto le modulazioni per provare, e vedere anche altre radio per fare confronti, l'importante è che non siano tutti con effetto eco e cagate varie che a me non piacciono, l'importante è la voce sia fedele che si senta, questa si sente bene, però ripeto, l'altra con l'altro tipo di apparato è un pochettino più naturale rispetto alla tua, conoscendoti di persona. Sì, vabbè, dai, l'importante è che vada bene, non c'è problema. È una radio che ho, poi ti dico, ti 140 con l'adattatore ICOM, però risponde molto bene, è linea di massimo, non ha grandi picchi di modulazione, forse saranno anche negativi, non lo so, ma non mi interessa, l'importante è che esce. Avanti Luca, riprendi. Aspetta un attimino, trovando un video qua. Vai Giulio, riprendi. Ok, ma io in questo baracchino picchi di modulazione ne verifico abbastanza, molto ampi anche, per cui tu magari, non lo so, forse nel tuo strumento non segna più di tanto, vabbè, questo è un baracchino vintage di 40 anni fa, è il Cobra 139 da base, per cui a voglia si oscilla l'ago qua abbastanza, ma addirittura di 20 dB qui oscilla, per cui già c'è la spinta qua. No, la radio è perfetta, è apprezzatissima, a me piace così, piace molto con la radio, anche perché non è con la radio bombardata e dunque è adatta proprio per il QSO, così in santa pace. Ok, avanti, vabbè. Aiano, anche tu sta uscendo bene. Che microfono stai adattando con quella radio, Giulia? Un microfono della CTE, proprio normalissimo, senza molte pretese, vecchissimo tra l'altro, che tra l'altro ci manca anche dietro, ci manca quel pomellino d'aggancio, ma non è un problema quello. Avevo questo, l'ho adattato e va bene, ma ne ho adattato diversi, perché io i microfoni li posso scambiare in tutte le radio, perché faccio sempre gli spezzoni, per cui non cambio mai lo spinotto originale, non lo cambio mai. Eventualmente faccio la modifica nello spezzone e va bene così. Io ho sempre fatto così e continuerò a fare così. Avanti Claudio. Ah, questo è il Cobra? Sì, questo è il Cobra 139, quello della stazione base, dai, diciamo. Per cui già va bene, no, non è un problema. Io parecchi anni fa, almeno 15 anni fa, se non anche di più, gli avevo fatto una modifica, perché questo è nato con 23 canali, no? Questo qui ha solo la M e la banda laterale, niente FM. E gli avevo aggiunto una quartiera supplementare con alcuni quarti, 5 quarti mi sembra che avevo messo, e sono riuscito a portare i canali da 23 sino al canale 37, naturalmente tramite poi un potenziometro che ho messo in modo da potermi agganciare da oltre i 23 canali, tutto io qua. Era una modifica che avevo visto su, se ricordo bene, sul CQ elettronica, ma io sto parlando di minimo 15 anni, forse anche 20, allora ero anche giovane e dunque ci vedevo anche bene da vicino, potevo saldare, potevo fare, a differenza di oggi che ho dei problemi che magari dopo 10 minuti o un quarto d'ora mi stanco e no, devo mollare. Vai qua. Sì, qua c'è la sciatolante di bianco. Va bene, no, stai uscendo benissimo, non bene, benissimo, ti ascolto magnificamente bene, il segnale è 9 e la radio è 5 perfetta, non ci stanno problemi, ti ricordo che sono a polarizzazione orizzontale, non verticale, avanti Roberto. Via, ok Luca, la tua faccia non c'è ancora Luca. No, sono qua. Mi sono mangiato due pezzi di pane carasò, ma questa volta l'ho fatto un bel grosso, tosto che la palla, ma duro mi. Fatto lo smatti a terra e spacca il pavimento. Mettici un po' di olio sopra e un po' di sale e la ammorbidisci. No, è già condito, Robert. Olio e paprika, buono, molto buono, molto gustoso. Solo che un bel grosso, un bel duro. Non so, magari hanno usato il coso più grosso, macinato grosso. Ok, Giulio, a te il bike e avanti. Ok, sì, mi guarda che ti ho mandato la foto di quel baracchino che sto usando qua. È vecchissimo, tipo pianoforte. Va bene, dai. Sì, no, anche io ascolto anche bene, no? Non c'è problema. Allora, tu parlante per affrontare questo, tra l'altro. Qualche piccola regolazione, tipo il voice lock che è scritto, poi c'è anche il potenziometro Dynam Mic, oltre naturalmente al volume e allo eccetera eccetera eccetera, e anche il cambio di banda. Va bene, poi dall'altra parte c'è la NL, l'NB e poi il CBPA, ma che quello l'avevo a sua volta eliminato tanto tempo fa, proprio perché avevo fatto quella modifica e non c'era bisogno, intanto io il PA non lo devo utilizzare, per cui il problema non ce ne so. Avanti Claudio. Sì, Crescelle, stavo guardando appunto questa, mi pare che questa l'ho avuta anch'io, questa l'ho avuta anch'io a coso, ah, sì. Sì, no, questa non l'ha data Franco California, l'avevo presa da uno che adesso non mi ricordo nemmeno, forse era Rosa Verde che ce l'aveva, adesso non me lo ricordo, ma sto parlando di almeno 15-20 anni fa o qua, e questa è una cosa di allora, e quando allora mi dedicavo anche a fare qualche applicazione elettronica, oggi invece non ho biogana tra l'altro, ma oggi ho l'età che ho, per cui non mi devo nemmeno addentrare più di tanto con questo adattore, al massimo mi dedico a fare qualche PL, qualche spessore, niente di più, ma non voglio andare oltre, perché ho passato tante di quelle ore negli anni passati, soprattutto quando facevo il microfono in legno, mamma mia, ero malato, non uscivo mai la domenica, soprattutto mi dedicavo solo esclusivamente all'applicazione elettronica, cosa che non ci voglio più ritornare. Avanti, vabbè. Ehi, vabbè, poi alla fine già ti stufi anche molte cose che prima faceva, ma non hai più voglia, a parte che non hai più tempo di farle, però sono sempre esperienze che ti possono servire in caso di necessità. Ok, vediamo Luca, quella che stai dicendo tu, la radio, quella che c'ha, come hai detto tu, una specie di pianoforte che c'ha una base, è fatta ad angolo la radio, Giulio. È una specie di pianoforte. Aspetta che ti mando la foto, così va bene, dai, così non so di spiegartelo. Ma la immagino comunque, perché qualcosa avevo visto. Sono bella, se quella che sto dicendo io è carina, è anche abbastanza grande. Luca, a te il mic. C'è qualche break, avanti. Buonasera a tutti, Gianni Doppio Lui. La conosco anch'io, Giulio, con la radio, mi sa. Io la paragonavo più a un mixer. Ciao, già, buonasera, ben ascoltate. No, io l'ho avuta quella, sì. Nel cobra, quello base, marrone. Mi piace averla, però è una radio un po' particolare. Esce molto bene, va molto bene. È un po' particolare perché non puoi metterla, praticamente la devi mettere da sola, diciamo, dai. Devi mettere da sola, altrimenti non riesci a vedere niente, capito? Ciao Gianni, avanti, riprendi e fai girare. Io l'ho conosciuta proprio a casa di Franco California, probabilmente era quella tua, c'era una credenza e l'ho vista K. È una radio, diciamo che particolare, non sembra nemmeno un baracchino, sembra una consolma. Sì, è diciamo bellina perché ha la sua particolarità. Avanti, Roberto Quadrato, avanti. Ciao Gianni, ben sentito anche a te. Facciamo un attimino di bianco di nuovo, se c'è qualcuno che entra, perché a te non ti ho sentito quando ha fatto il break, ti ha sentito solo Luca. 2 secondi di bianco e poi facciamo riprendere a Giulio e poi a Luca. Bianco, bisogna fare il bianco, aspetta. Avanti Giulio. Ok, riprendo io, ciao Gianni, ben entrato. No, stavo cercando il numero di Roberto, eccolo qua, ecco, no, un altro Roberto questo. Vabbè dai, già ti trovo, Roberto, tra un po' te lo mando, dai, non c'è problema. Questo è Roberto Pozzi, che dunque non c'entra niente con te, vabbè già, forse nell'altra rubrica ce l'ho, vabbè, dai, già te lo mando fra un po', Roberto. Riprendi. Non ti preoccupare, non c'è problema, era solo curiosità. Claudio, adesso hai bombardato di nuovo. Sì, sono passato.